Allora iniziate, è la lezione della preghiera, perché si fanno dei movimenti con le mani e le braccia, tipo preghiera. Allora iniziate ad osservare gli appoggi di tutte le parti del corpo, partendo dai piedi ed arrivando fino alla testa. Osservate come appoggiano i talloni ed il resto del corpo. Magari questa volta cambiamo il modo di osservare gli appoggi e immaginate di essere dipinte di colore e osservate quali sono le parti che lasciano una traccia molto densa di colore sul pavimento, quelle che lasciano un po' di colore e quelle che proprio non toccano e quindi di colore non se ne vede. Partendo dai piedi e pian piano scannerizzando, ormai è di moda questa parola, tutto il corpo fino alla testa. Osservate come respirate, come tenete la bocca. Se state respirando, poi piegate le gambe mettete le mani giunte palmo contro palmo e indirizzate il pollice verso il torace e le dita verso la testa. Quindi, come se foste in piedi, con le mani giunte. E adesso, in questa posizione, piano piano allungate le braccia verso la testa, tenendo le mani giunte. E ritorno. Quindi, in altre parole, le allungate verso l'alto, alto inteso come se foste in piedi, alto, basso, destra, sinistra, eccetera, rispetto alla posizione in piedi. Quindi, in altre parole, il vostro alto è verso la parete dietro di voi. E osservate come fate questo movimento e se muovete altre parti. Osservate se continuate a respirare. Osservate se muovete la testa, se muovete la schiena, il bacino, cosa fate, se state ferme. Ed ora lasciate andare e allungate le braccia. Vi riposate un po', vi appoggiate lungo i fianchi. Ed ora, tenendo le braccia lungo i fianchi, varie volte premete la cintura sul pavimento lasciando che si muova il bacino e che il pube si muova verso la testa e continuate, andate e ritornate in posizione neutrale. E poi fate il movimento contrario, quindi premete il coccige e inarcate la schiena. Ecco, e ora unite i due movimenti, quindi una volta schiacciate la schiena, la parte lombare, muovete il bacino verso di voi, una volta inarcate la schiena e allontanate il pube da voi, rotolate quindi di seguito il bacino avanti e indietro, osservando se continuate a respirare e come tenete la bocca. Vi fermate, muovete le ginocchia in fuori, l'una volta e allungate le gambe, strisciando. Dopo che avete mosso il ginocchio in fuori, strisciate verso il pavimento, strisciate il bordo esterno del piede allungando la gamba. E arrivate con le gambe allungate. Bene, le ripiegate. Rimettete le mani a preghiera, quindi mani giunte, con le dita verso la testa e pollici verso di voi, le punte delle dita verso la testa, verso la faccia. Ed ora di nuovo allungate le mani e le braccia verso la testa e osservate cosa vi viene da muovere adesso e come fate il movimento. E riposate un po'. Ed ora piegate solo la gamba destra. La gamba sinistra è allungata, le braccia sono a preghiera come prima, quindi mani giunte. Ed ora allungate le braccia verso l'alto, premendo col piede destro sul pavimento. vi accorgerete che quando premete il piede destro si solleva l'anca destra, quindi allungate le braccia in alto e a sinistra. Quindi premete il piede destro mentre allungate le braccia in alto a sinistra e arrotolate a sinistra premendo la parte sinistra del torace. Braccia in alto, allungatele verso la parete dietro di voi mentre premete il piede destro, sollevate l'anca destra e girate verso sinistra. Riposate un po', allungando le braccia e le gambe. Ora ripiegate la gamba destra, mettete le braccia come con le mani giunte a preghiera e questa volta, mentre allungate le braccia in alto, vi girate verso destra con la gamba destra piegata. Il ginocchio destro non va in fuori, sta fermo e voi piano piano piano girate verso destra, ovviamente è più complesso, quindi divertitevi giocando un po', scoprendo come organizzare il movimento. Le braccia si allungano verso destra e verso l'alto, alto inteso come se foste in piedi, quindi con la parete, verso la parete dietro di voi, non verso il soffitto. Bene, adesso di nuovo allungate le braccia a sinistra, quindi verso l'alto a sinistra, sempre con la gamba destra piegata, premendo sul piede destro e osservate come viene questo movimento dopo che avete arrotolato a sinistra. Vi fermate, allungate le gambe, le braccia. Ora piegate la gamba sinistra, mettete le braccia con le mani giunte a preghiera, quindi con le dita rivolte verso il viso. e allungate le braccia verso l'alto. Quindi la parete dietro di voi è destra, premendo il piede a sinistra. Osservate se respirate, come tenete la bocca. Vi riposate, poi facciamo il movimento contrario, quindi sempre con la gamba sinistra piegata, però questa volta muovete le mani verso sinistra. Quindi quando vi siete riposate, sempre con la gamba sinistra piegata, mettete le mani giunte, appoggiate sullo sterno, con le dita verso il viso, allungate le braccia in alto e a sinistra. Alto non è inteso verso il soffitto, ma come se foste in piedi, quindi verso la parete che è dietro di voi. E allungate le braccia. E poi riprovate a muovere le braccia verso destra e verso l'alto. E vi fermate e allungate le gambe e le braccia. Ok, adesso piegate le gambe, mettete le mani giunte e muovete le dita in alto verso la parete dietro di voi. Osservate come viene adesso il movimento. E poi lasciate andare, arrotolate su un fianco e arrivate sedute con le gambe incrociate. Se fate fatica a rimanere sedute con le gambe incrociate, mettetevi un po' di cuscini sotto e sedetevi sopra i cuscini. E se lo doveste fare a casa e non avete i cuscini, vi potete mettere su una seggiola. Ok, adesso sedute, gambe incrociate, mani giunte, io mi siederei sul cuscino perché non sei tanto. Sì, infatti faccio fatica. No, più che altro per la schiena. E mani incrociate, scusate, mani giunte, gambe incrociate, cominciate a muovere le mani, tutti e due i cuscini, tutti e Ah, tutti e due. due. Cominciate a muovere le mani allungandole verso il soffitto. Allungate mani e braccia al soffitto. E ritorno. E osservate cosa state muovendo. Se solo le mani e le braccia o qualcos'altro. Riposate un po' le mani e adesso, quando fate il movimento, fatelo partire dalla base, quindi dal bacino. Quindi osservate cosa potete fare dal bacino in su per allungare le mani giunte, le braccia, questa volta sedute verso e sedute. E allungare le braccia verso il soffitto. Cosa fate e con cosa? Esempio, cosa fa il bacino, la schiena, la testa, il mento, per facilitarvi questo movimento di allungare le mani giunte e le braccia verso l'alto. E riposate un po'. Rimanete sedute, mettete le mani appoggiate sulle ginocchia. Ora mettete le mani giunte davanti a voi. Fissate con la testa avanti, quindi la testa sta ferma avanti. E mentre muovete le mani in alto, muovete gli occhi in basso. La testa sta ferma, le mani giunte, le braccia vanno in alto e gli occhi in basso. E adesso, quando siete con le mani giunte e le muovete in basso, gli occhi guardano in alto. La testa è ferma, le mani scendono e gli occhi guardano in su. Riposate un attimo e poi unite i due movimenti, quindi da mani giunte, tenendo la testa ferma, muovete le braccia in alto e gli occhi in basso, e poi le mani in basso e gli occhi in alto. Di seguito. E riposate un po'. E poi prima di sdraiarvi e riposarvi sul serio, mettete le mani giunte, allungate le braccia al soffitto e osservate come lo fate. Togliete i cuscini e vi sdraiate a supine, a pancia in su. Osservate come appoggiate a terra. Piegate le gambe, mettete le mani giunte. Provate ad allungare le braccia verso l'alto, quindi verso la parete dietro di voi, osservando come viene il movimento, come lo fate, se c'è qualche parte in più che si muove, se è più facile. Se è più chiaro. E vi fermate. E arrotolate sul fianco e ritornate sedute, mettendo cuscini. Se avete bisogno, fate fatica a stare sedute con le gambe incrociate, o vi sedete sulla seggiola e cambiate l'incrocio dei piedi e delle gambe. Ed ora mettete le mani giunte e quando allungate le braccia in alto, flettite la testa in basso, in mezzo al buco delle braccia che si allungano in alto. Osservando se lasciate il torace libero di flettersi, di sciogliersi, di essere flessibile. Osservate come si muove la schiena, il bacino. Osservate se il torace e lo sterno si muovono, se lo sterno va indietro quando flettete la testa. ora di seguito salite con le braccia verso il soffitto, mani giunte, salite verso il soffitto, lasciate che la testa si muova, non più come prima, ma agevolando il movimento delle braccia. Quindi osservate cosa potete fare con tutto il resto del corpo per allungare le mani giunte e le braccia verso il soffitto. Cosa fa la testa? Sta guardando le mani? O la tenete bloccata? Cosa fa il collo, la colonna vertebrale? Gli occhi stanno seguendo le mani? O no? Lasciate che gli occhi seguano le mani. Vi fermate, vi sdraiate su file. E quando vi siete riposate, questa volta tornate in ginocchio, sul ginocchio sinistro appoggiato a terra e il piede, scusate, sul ginocchio destro appoggiato a terra e il piede sinistro appoggiato per terra davanti a voi. Quindi rotolate sul fianco e arrivate quello che volete. E arrivate appoggiate sul ginocchio destro, ma col piede sinistro per terra avanti a voi. Quindi il ginocchio giù e l'altro su. E cercate di trovare la posizione per poter stare in equilibrio. Mettete le mani giunte e cominciate ad allungare le mani al soffitto. Piano piano, l'importante è mettere attenzione al fatto di stare in equilibrio. Lasciando che tutto si muova, quindi anche la testa, gli occhi, tutto quanto. Osservate se continuate a respirare. Se avete bisogno di riposo, vi fermate, altrimenti continuate allungando il braccio, le braccia e le mani giunte verso il soffitto e ruotandovi di lato, dalla parte che vi riesce più facile. Probabilmente, ma non è detto, perché dipende dalla torsione della colonna vertebrale e dalla scoliosi, quando allungate le mani e le braccia al soffitto, se siete sul ginocchio destro col piede sinistro appoggiato, vi risulterà più facile girarvi verso destra. Osservate come tenete la bocca, come respirate, no, sulla destra. E ritornate al centro, ritornate a mani giunte al centro, vicino allo sterno e poi ruotate a destra allungando le mani e le braccia. Adesso fate la stessa cosa, sempre in quella posizione, ruotando a sinistra. Osservate come tenete la bocca, come respirate. Dopodiché, se volete vi riposate, oppure continuate, vi riposate dopo e allungate le braccia ruotandovi di seguito una volta a destra e una a sinistra. Saggia idea, a riposo meritato. Copiona. Ritornate nella stessa posizione, quindi ancora col ginocchio destro appoggiato e il piede sinistro, dopo cambiamo, e il piede sinistro appoggiato per terra davanti a voi, e questa volta sempre mettendo le mani giunte, cominciate a fare la prova allungando le braccia al soffitto, dritte in mezzo. Ed ora, quando allungate le mani giunte al soffitto, come abbiamo fatto da seduti, guardate con la testa in basso, in mezzo al buco formato dalle braccia che si allungano in alto, e poi ritornate, e man mano che lo fate, lasciate che il bacino vada indietro un pochino, senza sforzo, verso il tallone destro. Mani giunte, siete con un ginocchio appoggiato e l'altro sollevato e il piede appoggiato, allungate le mani giunte verso il soffitto, la testa guarda in basso e contemporaneamente il bacino va indietro verso il tallone destro. Osservate se lasciate la schiena, il torace, lo sterno libero di muoversi. E se sarà libero il bacino riesce ad andare più indietro, verso il tallone destro. E riposate un po', potete sdraiarvi e poi facciamo con l'altro ginocchio. Se faccio una fatica col sinistro, questo qua lo faccio però mi fa un po' male. Un po' male? Sì. Vuoi cuscino sotto? Mettiamo cuscino sotto il ginocchio. Proviamo, se non penso che pochiamo, probabilmente. Ok, arrotolate sul fianco e questa volta appoggiate il ginocchio sinistro. Cioè vi appoggiate sul ginocchio sinistro e con il piede destro. Questo qua. Avanti. No, non serve. Quindi a cavalier servente di nuovo. Mani giunte. Sì, meglio. Stavo pensando alla gamba, vedendo Allora, questo davanti e questo qua. Siete appoggiate sul ginocchio sinistro. Il piede destro è appoggiato avanti, col ginocchio destro sollevato. Trovate la posizione di equilibrio, mettete le mani giunte e cominciate ad allungare le braccia e le mani al soffitto, permettendo a tutto di muoversi. Ed ora, quando allungate le braccia, ruotatevi come prima dal lato che è più facile, quindi probabilmente sarà il sinistro. Ma non è detto, basta avere un po' di scoliosi e affini. No. Dal centro al lato, non da tutte le parti, non ancora. Sedia allora. Yes. Dalla parte verso la quale vi trovate meglio. Lasciando che si muova tutto, la schiena, il bacino, la testa, il collo, le braccia, le mani. Scongelatevi. Piano. Riposate un po'. E quando vi siete riposate, nella stessa posizione, con la stessa gamba e piede, lo fate girandovi dalla parte opposta. Osservate se state respirando e come tenete la bocca. E adesso alternativamente ruotate da una parte e dall'altra. Mentre allungate le braccia al soffitto e quando siete al centro le mani sono giunte appoggiate più o meno davanti allo sterno. Osservate il respiro. Come tenete la bocca? Vi riposate un po'. Quindi questa volta avete il ginocchio sinistro appoggiato, il piede destro appoggiato avanti. Mettete le mani giunte davanti a voi, allungate le braccia al soffitto, con la testa guardate in basso e ritornate guardando avanti con le mani davanti allo sterno e continuate a farlo. E mentre allungate le mani e le braccia al soffitto, la testa guarda in giù e lentamente permettete al bacino di andare indietro verso il tallone destro. Vi accorgerete che non potete fare questo movimento a meno che non lasciate libero, flessibile, fluido tutto il torace. Quindi permettete allo sterno di andare indietro, alla colonna vertebrale di andare indietro. Come per sedervi. Quindi indietro e in giù. E riposate. Può essere il tuo mare. Può essere questa parte quella qua. Se volete potete sdraiarvi. Possiamo. Anche quando volete. Sì, sì, ma soprattutto. Osservate come state appoggiate per terra. Se c'è qualche cambiamento. E poi di nuovo per l'ultima volta arrotolate sul fianco e questa volta vi mettete in ginocchio su entrambe le ginocchia. Con le mani giunte davanti a voi, sullo sterno, poggiate e allungate di seguito il braccio, le mani e le braccia al soffitto e ritornate. Osservate se muovete solo le mani e le braccia o altre parti. E vi sdraiate. Sì, meglio con voi, lo so. C'è meno problema di equilibrio. Tutto una tensi. Lo so. Ma... è qui il bello. Ora, piegate entrambe le gambe. Mettete le mani giunte, appoggiate sullo sterno, con le dita verso la testa. Rifacciamo il primo movimento nel quale allungavate le mani verso la testa e la parete dietro di voi e ritorno. E osservate come viene adesso, come lo fate, se è più facile o uguale o di meno e cosa muovete. E se respirate, se tenete la bocca morbida. E poi lasciate andare, allungate le braccia, le gambe. E cominciate a riosservare le impronte di colore che lasciate adesso, confrontandole con quelle dell'inizio, Quindi come sono quelle che lasciavano tanto colore, quelle che appena appena ne lasciavano un po', quelle che non lasciavano niente, cos'è cambiato, cos'è uguale? Dai piedi alla testa. E quando siete pronte, lentamente arrotolate su un fianco, vi sedete, vi alzate in piedi, e quando siete in piedi, osservate come state in piedi e camminate e osservate come influisce questa lezione nel camminare.